Bibbia Martini, primo libro dei re. 3 Salomone sposa la figliuola di Faraone. Chiede in un sogno la sapienza, e gli è conceduta insieme con la gloria, e con le ricchezze, e di essa dà il primo saggio nel decidere la lite delle due meretrici. Rimase adunque assicurato il regno a Salomone, ed egli si imparentò con Faraone re d'Egitto, perocché sposò la sua figliuola, e menolla nella città di David, persin tanto che avesse finito di fabbricare la sua casa, e la casa del Signore, e la mura attorno a Gerusalemme. Con tutto ciò il popolo immolava nei luoghi eccelsi, perché fino a quel giorno non era fabbricata la casa del Signore. Or Salomone amò il Signore, e mise in pratica gli avvertimenti del suo Davide, se non che immolava nei luoghi eccelsi, e vi bruciava gli incensi. Egli adunque andò in Gabaon, per offrire ivi sacrificio, perocché quello era tra luoghi eccelsi il più grande. 1000 ostie offerse Salomone in olocausto sopra quell'altare di Gabaon. E il Signore apparve la notte in sogno a Salomone, e gli disse, chiedimi quello, che vuoi, ch'io ti conceda. E Salomone disse, tu avesti in verso del tuo servo Davide mio padre una misericordia grande, conforme egli camminò al tuo cospetto nella verità, e nella giustizia, e nella rettitudine di cuore verso di te, tu conservasti a lui la tua misericordia grande, e gli desti un figliuolo, che sedesse sopra il suo trono, come avviene oggi. E adesso, Signore Dio, tu hai fatto regnar me tuo servo in luogo di Davide mio padre, e io son piccol fanciullo, che non so la maniera di regolarmi. Il tuo servo sta in mezzo al popolo eletto da te, popolo infinito, che non può annoverarsi, né ridursi a calcolo per la sua moltitudine. Dà dunque al tuo servo un cuor docile, affinché possa render giustizia al tuo popolo, e distinguere il bene dal male, impero che chi mai potrà render giustizia a questo popolo tuo così grande? Fu grato al Signore questo discorso, per avergli Salomone domandata simile grazia. E il Signore disse a Salomone, perché tu hai domandata questa cosa, e non hai chiesta lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai domandata la sapienza, per discernere il giusto? Ecco, che io ho esaudito le tue parole, e ti ho dato un cuor sapiente, e di tanta intelligenza, che nessuno è stato simile a te per l'avanti, e nessuno sarà in appresso. E oltre a questo quelle cose ancora, che tu non hai domandate, io te le darò, vieni a dire le ricchezze, e la gloria, talmente che non si troverà il simile a te tra i regi in tutti i passati tempi. E se tu batterai le mie vie, e osserverai i miei precetti, e insegnamenti, come li osservò il padre tuo, io farò lunghi i tuoi giorni. Si svegliò adunque Salomone, e intese la qualità del sogno, ed essendo andato a Gerusalemme, si portò dall'arca del testamento del Signore, e offerse olocausti, e vittime pacifiche, e fece un gran convito a tutti i suoi servi. Allora andarono due donne meretrici a trovare il re. Essi presentarono dinanzi a lui, delle quali una disse, aiutami, signor mio, io, e questa donna abitavamo nella medesima casa, e io partorii nella camera, dov'ella pure stava. E il terzo di dopo che ebbi partorito io, ella ancora partorì, e noi stavamo insieme, e nessun altro fuori di noi due era con noi in quella casa. Or il bambino di costei di notte tempo si morì, perché ella indormendo soffogò. Ed ella alzatasi nel cuor della notte prese il mio figlio dal lato di me tua serva, che era addormentata, e sei posse sul suo seno, e posse in seno a me il suo figliuolo, che era morto. E levatami la mattina, per far poppare il mio figlio, lo vidi morto, ma mirandolo più fissamente a giorno chiaro, riconobbi, che i non era il mio, ch'io avea partorito. Ma l'altra donna rispose: la cosa non sta, come dici tu, ma il tuo figliuolo morì, e il mio è vivo. E quella pel contrario diceva: tu sei bugiarda, però che il mio figlio è vivo, il tuo è morto. E in tal guisa altercavano dinanzi al re. Allora il re disse: questa dice, il mio figliuolo è vivo, il tuo è morto. E quella risponde: no, ma il tuo è morto, e il mio figlio è vivo. Soggiunse pertanto il re: portatemi una spada. E portata che fu la spada dinanzi al re, dividete, diss'egli, il bambino vivente in due parti, e datenne la metà all'una, e la metà all'altra. Ma la donna, di cui era il figlio vivente, disse al re: di grazia, o signore, date a lei il bambino vivo, e non l'uccidete. Ma l'altra pel contrario diceva: non sia né mio, né tuo, ma si divida. Rispose il re, e disse: date a quella il bambino vivo, e non si uccida, però che d'essa è sua madre. Or tutto Israele fu informato della sentenza pronunziata dal re, e concepirono timore di lui, veggendo come la sapienza di Dio era in lui, per rendere giustizia. Note, 3,12 imparentò con Faraone. Il re d'Egitto confinava con la Palestina, ed era molto potente. Quindi Salomone, per meglio assicurare il suo regno, sposò la figlia di quel re. Per la stessa ragione conservò la buona amicizia che Davide aveva avuto con Hiram re di Tiro. Questo matrimonio di Salomone credesi avvenuto il secondo anno del suo regno, e credesi ancora che questa figliuola di Faraone abbracciasse la religione ebrea. Anzi, ciò sembra accennarsi nel Salmo 44. 2. Ritornello: benché la legge vieti i matrimoni con donne straniere, con tutto ciò gli interpreti generalmente convengono, che Salomone, imposando questa egiziana convertita all'ebraismo, non peccasse. E questa opinione è fondata nelle scritture, dove san lodati i cominciamenti del regno di questo principe, e dove si dice, che gli amò Dio. Egli è però vero, che credesi ancora comunemente, che ella ritornò di poi all'idolatria, e fu la cagion principale degli errori gravissimi, in cui precipitò questo principe. 3,32 se non che immolava nei luoghi eccelsi. È notato anche di sopra come un difetto e una imperfezione nel popolo l'offerire dei sacrifici nei luoghi eccelsi, vale a dire, su certi monti e su certe colline, dove erano altari eretti sopra i vivi massi o nelle selve. Molti di tali luoghi erano frequentati con special devozione dagli ebrei, o perché rappellavano ad essi le memorie e gli avvenimenti degli antichi patriarchi e dei loro grandi uomini, a perché erano stati consacrati dal soggiorno che vi aveva fatto l'arca del Signore. Così Betel, Sishem, Hebron, Galgal, Gabaon, Silo, Kiriatarim. Ecco, erano presso di loro in molta venerazione, e abbiam veduto come i più illustri e religioso uomini anche prima di Salomone andavano ad offerir sacrifici in tali luoghi. Ma era ordinato nella legge che i sacrifici non si offerissero altrove che nel tabernacolo del Signore, e quantunque il contrario uso fosse stato tollerato da Dio particolarmente per il tempo in cui il tabernacolo non ebbe sede fissa e permanente, con tutto ciò Dio vedea di ma l'occhio un tal uso. Sopra di che ottimamente esse Agostino quaest. 36. Imjad. La consuetudine del suo popolo di offerir sacrifici fuori del tabernacolo, questa consuetudine la tollerava il Signore, che esaudiva anche allora coloro che gli offerivano. E ciò ben comprese di poi Salomone, allorché Dio lo ebbe arricchito dei lumi di sua sapienza, e vide perciò quanto fosse necessario di togliere ogni occasione, o pretesto di allontanarsi in ciò dalla legge, col fabbricare un tempio, nel quale solo fossero presentate a Dio le oblazioni e i sacrifici da tutto il popolo. 3,42 punti andò a Gabaon. Ivi era l'altare degli olocausti fatto da Mosè, lasciatomi da Davide, quando trasportò l'arca a Gerusalemme. 3,52 punti e il Signore apparve la notte in sogno a Salomone. Questo sogno di Salomone è simile a quello di Adamo, Gen 2. 21, a quel di Abramo, Gen 15. 1, vale a dire un'estasi, ossia una visione profetica. Salomone appena salito sul trono si porta a Gabaon per rendere a Dio il tributo di sua pietà, e conoscendo tutto il peso della dignità reale e le obbligazioni grandissime annesse al principato, tutti i suoi desideri e i suoi voti restringe a chiedere istantemente al Signore il dono della sapienza. Dio lo visita, lo consola la stessa notte, e gli concede quello che egli tanto bramava, e più ancora di quel che egli bramava. Vedi Sap. 7. 7. Ec. 3,12 punti ti ho dato un cuor sapiente, ec. Dio dà a Salomone, prima una mente sagace e prudente per ben operare, secondo, la cognizione infusa di tutte le scienze e di tutte le arti utili. Vedi Sap. 7. 17. Ecclesiastico 47. 11, terzo, la scienza dei misteri della fede e della sublimissima teologia, la quale scienza apparisce da libri sacri, che egli ci ha lasciati. Nessuno è stato simile a te, nell'ampiezza e vastità delle cognizioni tu non hai aiuto, né avrai l'eguale. Impero che molti grandi uomini avranno avuto, o avranno in appresso un egual sapere nelle cose divine, come Mosè e gli apostoli, ma non nelle case naturali e politiche. 3,13 punti le ricchezze, ecco. Sul punto delle ricchezze di Salomone può vedersi una dissertazione del Calmet, la quale giustifica ottimamente quello che qui è promesso a questa re. 3,15 punti intese la qualità del sogno. Intese, come questo sogno era da Dio, ed era una predizione di quello che Dio volea loro per lui. 3,16 punti due donne meretrici. La voce ebrea può significare due donne, che facevano il mestiere di albergatrici o locandiere. L'altro infame mestiero non era tollerato nelle donne ebree.